oltre la crisi. Parliamone. In studio il professor Francesco Campione. Ma campione de che? Scusa. Campione senza valore. Riprendo una battuta di qualche puntata fa. Bene, siamo di nuovo qui a mercoledì, oltre la crisi. Ciao Francesco. Ciao, ciao, ciao a tutti. È tornato in regia Willy. Buongiorno, buongiorno, eccomi qua. Togliendomi le castagne dal fuoco, come si dice, perché la settimana scorsa ci avevi abbandonato, Willy. Assente poi ingiustificato. Assolutamente sì, siamo ancora turbati. Un cartellino giallo per William. Sì, esatto, esattamente. Comunque oggi... No, ma adesso per un po' si dovrà far perdonare. Esatto, quindi... Per un po' si comporterà bene. Sarà stabile. Certo. Bene. Allora, oggi... visto che noi partiamo normalmente da questioni di attualità, non si può fare a meno di non parlare, anzi di parlare, sono un po' troppi non, di quello che è avvenuto a Lecco. Una giovane donna con tre figli, oltretutto immigrata, dopo vedremo anche perché lo diciamo, non lo diciamo certo per sottolineare il suo status dal punto di vista razzista o giù di lì, ma perché andiamo poi ad analizzarne anche le implicazioni. Comunque, questa giovane donna viene lasciata dal marito e la sua azione è quella di accoltellare le tre figlie. Io non rimango, potrebbe sembrare banale quello che dico, ma rimango sempre molto colpita da queste vicende. Non è la prima, per fortuna sono rare, ma fino a un certo punto cominciano a essere anche un po' troppo poco rare. La prima domanda che mi viene da fare è: che cosa fa arrivare una madre, con il concetto di madre che abbiamo noi, quindi la madre che accudisce, che protegge, che difende dalle intemperie i propri figli, cosa fa appunto rivoltare la situazione in modo tale per cui diventa la carnefice dei propri figli? Ma dunque, intanto il sentimento di orrore per la questione, per il fatto, per l'evento che tu manifesti, credo che sia un sentimento universale. Penso che non ci sia niente di più orripilante del constatare che la tua mamma, che ti ha messo al mondo, poi ti uccide. Dal punto di vista, diciamo, cioè prendiamola alla larga, dal punto di vista psicologico ci sono due possibili spiegazioni. Una è che in questi casi prevale in una donna l'umiliazione per essere lasciata, tradita. Umiliazione che si esprimerebbe come nella Medea di Euripide, colpendo il marito, l'uomo che l'ha tradita, in ciò che più esprime la sua presenza nella coppia, cioè i figli. Cioè, in definitiva, la prima possibile spiegazione è che si tratti di una tremenda vendetta femminile. Tu mi tradisci, in questo modo neghi il mio essere la tua donna con cui hai fatto dei figli, e io, per vendicarmi, uccido i tuoi figli e i miei figli. E in qualche modo uccido anche me stessa. Uccido una parte di me vendicandomi. Cioè, in definitiva, questa è una delle possibili spiegazioni. Che è una spiegazione, appunto, che ha anche un sapore, anche, così dire, classico, letterario, no? Così. E che corrisponde in qualche modo. Ecco, però, l'obiezione che si fa di solito a questa spiegazione è che questa spiegazione implica una grande, enorme lucidità mentale. In realtà, come dire, io suppongo che per poter prendere un coltello e accoltellare tre bambini, uno di seguito all'altro, tre figli, ci voglia una grande confusione mentale, altrimenti non è possibile. Ti aggiungo questo a proposito di confusione mentale, due particolari che ho notato nella notizia. Una, che questa cosa avviene la domenica mattina, presto. E non so perché, ma di solito il sabato e la domenica, forse perché sono i giorni più liberi della settimana, quando qualcuno ha un'angoscia, un tumulto, eccetera, eccetera, sicuramente esplode in una giornata del genere. Potrebbe sembrare una banalità, ma è così. E l'altra sono le prime parole che lei ha detto quando sono arrivati i soccorsi. Ovvero, sono sola, non mi aiuta nessuno, non ce la facevo più. E queste due cose messe insieme mi fanno veramente pensare a una non tanto lucidità. Certo, è proprio questo. Aggiungevo solo, per dovere di cronaca, che lei ha tentato il suicidio in seguito all'atto. Certo, però non ce l'ha fatta a suicidarsi. Cioè, in definitiva, la probabilmente... spesso nell'esperienza delle persone che fanno un omicidio suicidio c'è questo racconto che dopo aver fatto una cosa così non lucidamente si riacquista lucidità per il trauma. Il trauma ti sveglia e tu poi non riesci più ad accettare ciò che è successo e non riesci più a farti fuori. Cioè non sei abbastanza fuori più, perché il trauma stesso ti ha svegliato, ti ha fatto diventare più lucido. Però questo è tutta una cosa da ricostruire. Torniamo, le tue osservazioni mi sembra che vadano nella direzione della seconda ipotesi psicologica che si fa, e cioè l'ipotesi depressiva. Cioè, in definitiva, una persona resta sola con una situazione che non riesce a gestire, si sente senza via d'uscita, si deprime, ed è la depressione profonda quando uno dei figli fa parte anche l'idea catastrofica che se tu ti uccidi e lasci i figli senza di te, loro non se la caveranno, e che prima di ucciderti tu debba uccidere loro per salvarli dalla catastrofe che li attende dopo. Naturalmente è il ragionamento di una persona disperata, no? Però questa è la seconda possibile spiegazione, no? Io mi fermerei qui per ora. Cioè, direi che bisogna riflettere appunto su due possibili vie. L'altra ipotesi che mi sento di aggiungere è che noi, come dire, per rassicurarci di fronte all'orrore, cerchiamo una spiegazione. Però non è detto che la spiegazione ci sia. Noi dobbiamo cioè mettere in conto anche il fatto che ci sono comportamenti umani che sono comportamenti assolutamente impossibili da comprendere. Cioè che sono comportamenti umani che in qualche modo condensano quella dimensione umana che, come dire, i poeti chiamano la dimensione dell'assurdo. Cioè l'uomo è anche in grado di fare cose assurde, incomprensibili, atroci, talmente atroci da sfuggire a qualunque tipo di ragionamento. Per cui, come dire, la ragione trova in certe situazioni il suo limite, la sua insufficienza. Ecco, io rifletterei anche su questa terza possibilità. Ok, e mentre riflettiamo ricordiamo i numeri, ci chiediamo ovviamente come al solito ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici di darci una mano in questa riflessione dal punto di vista di esperienze personali. Intanto noi diamo i numeri. Esatto, diamo i numeri, ovviamente esperienze personali non intendo qualcuno che abbia ucciso i figli o anche sì, ma intendo comunque a chiunque di noi

Sì, vabbè, ho capito. È ripartito Bill Withers. Allora vedi che avevo serenamente dubbi che tu non mi volessi rimettere in onda ed erano sensati. È che non volevo far rimpiangere la mia assenza. Meno male che William non c'era, così la regia viene fatta meglio. Però insomma, dai, cerchiamo di impegnarci di più. Vai, Francesca. Francesco, tu prima parlavi dell'orrore, l'orrore che suscita una cosa del genere in tutti noi. E ti dirò che questo orrore è ben espresso, come al solito succede, da quelle che sono le interviste ai vicini, agli amici, chiamiamoli così, rimangono scioccati, non se l'aspettano, ovviamente crolla l'orrore, a maggior ragione su di loro che sono limitrofi, e quindi diventa anche una loro storia in un qualche modo. Certo, una vicenda di questo genere, come dire, spande attorno a sé una serie di veleni, di traumatismi, per cui, cioè, come dire, secondo me bisogna preoccuparsi non solo di quelle povere bambine che non ci sono più, ed erano innocenti, non hanno fatto niente per non esserci più, non solo della povera mamma che in realtà anche lei è una vittima e adesso chissà come farà a vivere, perché è ancora viva, perché è una cosa terribile pensarci, no? Come farà a vivere? Come avrà passato queste ore, questi giorni, che cosa si può significare vivere, no? Non solo a questo bisogna pensare, ma bisogna pensare anche appunto alla disorientamento, allo sconcerto, al tremendo senso di sfiducia nell'umanità che si diffonde in tutti quando succede una cosa di questo genere, no? Allora, cioè, come dire, c'è un elemento, prenderei in considerazione anche un altro elemento che di solito non si prende in considerazione, e cioè l'elemento di elaborazione collettiva di queste cose, no? Per questo penso che sia importante parlarne, no? Non solo per ripercorrere l'orrore, perché la cosa di fronte all'orrore, quello che ci verrebbe più spontaneo è di dire lasciamo perdere, dimentichiamocelo il più possibile, facciamo come se è una cosa rara, poi in definitiva lasciamo stare. Rimozione. Rimuoviamo. Però è sbagliato, perché appunto quello che spande tra di noi questa una notizia del genere è un senso di totale insicurezza su ciò che in fondo rassicura di più, cioè tu stai con la tua mamma e la tua mamma ti può uccidere. Ora, da questo punto di vista, tu stai con la tua mamma e la tua mamma ti può... Cosa c'è di sicuro più se la tua mamma ti può uccidere? Che è come quando tu stai tranquillo a casa tua e quell'altra mamma metaforica o con materiale che è la terra si mette a tremare e ti uccide, no? Cioè, in definitiva, è l'annuncio della possibilità di una catastrofe senza via d'uscita per tutti. Quindi c'è, come dire, infatti io sarei curiosa di sapere anche i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici come hanno vissuto nel loro focolare questa notizia, come l'hanno pensata, elaborata, eccetera. Quindi gli chiediamo di intervenire in merito. Ti dico io in grande maggioranza come l'hanno vissuto, dicendosi che a loro non può mai accadere una cosa del genere. Cioè cercando di prendere le distanze. A me non mi succederà mai. Vorrei andare a fondo su questa cosa qui, perché spesso quando succedono fatti cosiddetti eclatanti, passami il termine schifoso, tra virgolette, la prima reazione, ma anche da parte mia, a me questa cosa non succederà mai. Quella povera donna o quel a seconda di chi è il soggetto carnefice è un deviato, a ripassami le virgolette anche qua. No, io sì, secondo me la cosa che bisognerebbe arrivare a dire è: a me non mi succederà mai, spero. Speriamo che a me non mi succeda mai. però richiede una consapevolezza che tu potenzialmente potresti essere il protagonista di una storia del genere. Certo, ma soprattutto, come dire, ci vorrebbe nella nostra, in ogni cultura, qualcuno o una funzione collettiva che sia in grado di dirci di fronte a questi eventi, guardate che sono eventi che possono succedere, quando succedono quello che bisogna fare non è soltanto ritrarsi con orrore, che è quello che viene, ma anche prenderne occasione per cercare di fare in modo che le ragioni di quelle situazioni non si verifichino mai. Perché il problema qui è, torniamo all'evento, ecco. Cioè torniamo alla situazione. Cioè, quali sono le ragioni? Se studiamo la cosa, c'è una... questa donna è rimasta totalmente sola di fronte a una situazione che evidentemente per lei era pesantissima, difficilissima da gestire. È rimasta totalmente sola con il suo... col tradimento. È rimasta totalmente sola dal punto di vista sociale, perché probabilmente, ecco, io ho sentito le dichiarazioni della mamma fatte dall'Albania, e la mamma diceva: se potessi essere vicina a mia figlia, no? Perché certe volte, cioè, quali sono le difese che ti vengono a mancare quando ci sono queste, quando accadono queste cose? Perché tu puoi ridurti ad essere, a restare completamente solo con una situazione che ti schiaccia e tu la vedi come senza via d'uscita? Cioè, secondo me questa è la cosa su cui dovremmo interrogarci tutti di fronte a queste situazioni qui. Perché in definitiva, se noi facciamo di tutto perché una persona non resti sola in certe situazioni, è più improbabile che queste situazioni accadano. Cioè, diciamocelo. Cioè, in definitiva, la difesa fondamentale nei confronti di queste cose è che ci sia qualcuno che ti aiuti. Tant'è vero che la dichiarazione, appunto, di questa donna, è la prima dichiarazione, la più spontanea, ero sola, ero rimasta sola, non sapevo che fare. Cioè, le mie forze non sono bastate. E quindi io poi qualcosa dovevo fare e ho fatto la cosa peggiore. Ho fatto ma se non fossi stata da sola, l'avrei fatto. Ecco, quindi, in definitiva, la riflessione, secondo me, che dobbiamo fare è questo: che fare perché non si ripeta? Cosa possiamo fare? E che c'entriamo noi? Perché il problema è: ma che c'entriamo noi? C'entriamo noi, c'entriamo sì. Perché tante. C'entriamo noi, sì. È interessante questa cosa. Cosa c'entriamo noi in questa situazione qua? Abbiamo responsabilità rispetto a questa situazione qui? È arrivato un messaggio. Leggiamolo. E te lo leggo subito. Dunque, dice: io, anziché prendere le distanze, ho pensato: c'è tanta di quella gente che perde la testa. Come faccio a dire che non possa succedere a me? E come faccio per evitarlo? Direi che Simone ci dà un bello spunto di riflessione che va proprio nell'onda su cui, certo, stavi ragionando. Volete rispondere dopo la pubblicità? Dai. Un po' di musica? Ora? Sì, sono già i 27. Mettiamo Simone, un po' di musica. Simone, resta in linea che ti rispondiamo. E Simone, poi non te ne andare. Oh, that it seems that we're living life. Did you fail when you found that you're better? Assieme in diretta alle 13:35 minuti. E a proposito di commemorazioni, il 1955, 12 marzo, scompariva Bird, Charlie Parker, che abbiamo qua, che ci sta accompagnando non solamente nella vita di tutti gli appassionati di jazz, ma anche per questo rientro in diretta. Quindi un saluto, un ricordo, un rest in peace al grande Charlie Parker. Dobbiamo rispondere a un SMS. Sì, un SMS, tra l'altro, visto che siamo in radio, ho fatto un mix prima tra un messaggio da una parte e un nome da un altro, ho fatto un casino del 32. Comunque è arrivato questo messaggio. Io, anziché prendere le distanze, ho pensato, c'è tanta di quella gente che perde la testa, come faccio a dire che non possa succedere a me e come faccio per evitarlo? Stiamo parlando ovviamente di ciò che è avvenuto a Lecco, per chi si fosse messo in sintonia soltanto da poco, della donna che ha ucciso le tre bambine. Appunto, stavamo ragionando su anche le reazioni di chi riceve questa questa notizia e come la elabora, e questo era un SMS di un nostro ascoltatore, di una nostra ascoltatrice, che sollecita appunto Francesco. Certo, no, ma intanto bisogna dire che si tratta di una persona che, come dire, condivide una delle due possibili spiegazioni, propende per dire chi una mamma che uccide tre bambine è fuori di testa, no? Cioè è una follia. Poi però di fronte alla follia questa persona si chiede: ma come faccio a dire che non potrebbe, che non potrebbe mai succedere anche a me? Cioè, se succede a una persona, potrebbe succedere anche a me, d'accordo? E la domanda spontanea è: come faccio a tenermi a distanza, cioè impedire che mi succeda? Ecco, allora, questo è, come dire, intanto... Aggiungerei un'altra cosa: impedire che mi succeda e impedire che succeda alle persone a cui tengo, cioè a quelle che fanno parte del mio... Sì, che è sempre un'altra versione. Cosa posso fare per me, cosa posso fare per quelli che mi stanno attorno, che è un'altra versione del succedere a me, perché se succede alle persone, sì. Allora qui secondo me c'è una duplice, si possono seguire due strade. La prima strada è quella di dire: la follia è una possibilità umana, bisogna sapere che tutti possiamo impazzire e cercare di capire come fare in modo che questo diventi sempre più improbabile nella nostra vita. E allora si possono dire, dopo le diciamo, alcune cose per... L'altra via, invece, è quella di chi dice: aspetta, è una spiegazione facile, quella di dire: è impazzito quello che ha fatto una cosa, perché ce n'è un'altra possibile spiegazione, e cioè che c'è il male, cioè che di fronte a una situazione, quando uno viene colpito da qualcosa, non è che da un male, come questa donna, non è che l'unica possibilità è di impazzire, c'è un'altra possibilità di rispondere al male col male, con altro male. Però la domanda che faceva il nostro ascoltatore o la nostra ascoltatrice è anche, potrebbe essere comunque calata anche in questo tipo di spiegazione: come faccio a non arrivare a rispondere al male col male? Sì, però se è così, la domanda non è come faccio a fare in modo di non impazzire o che non impazziscono le persone care, e come faccio a fare in modo che il male che mi colpisce non produca altro male. Cioè sono due, in definitiva, due vie, sono due, una più come dire, più psicologica e l'altra più metafisica, in un certo senso, no? Quella più psicologica è quella che afferisce al fatto che uno, dopo un po' che vive che ha esperienza, capisce che ci sono i matti, che si può ammattire e posso ammattire anch'io. Come faccio per evitare di non ammattire? Ecco, allora, il problema è: tu devi stare attento a non andare oltre un certo limite nella sopportazione di quello che devi sopportare. Non devi andare oltre un certo limite nella solitudine della tua vita, perché se tu devi sopportare cose troppo atroci e sei troppo solo, è probabile che tu impazzisca. È abbastanza. Chiunque ci si trovi in quella situazione, chiunque si trovi in una situazione senza via d'uscita da solo, o si uccide o uccide. È matematico. Allora il punto è: per prevenire... Come riconosco i limiti? I limiti li riconosco in base, se io desidero una cosa impossibile e la voglio per forza, lì c'è un mio limite. Tutte le volte che io sono in una situazione di impossibilità, lì incontro il mio limite. Per cui, per esempio, quella signora lì, quella donna lì, no? Probabilmente ha pensato: ora tocca a me gestire le mie tre figlie, non ho nessuna risorsa per gestirle perché sono stata lasciata sola, e quindi è tutto finito per me. D'accordo? Allora il problema è vero questo? Era di fronte al limite? Aveva una ragazzina di 13 anni che era come se fosse una sua amica, tre bambine, una più sveglia dell'altra, avrebbero potuto aiutarla loro nella sua vita. Non è detto. Allora lì c'è una situazione in cui una persona si pensa di aver incontrato il proprio limite, e quando uno incontra il proprio limite cosa dovrebbe fare? Invece di dire no, quel limite non si può superare e quindi mi deprimo e ammazzo e mi ammazzo, eccetera, eccetera, quando incontra il suo limite dovrebbe dire: è sbagliato quello che desidero. Quando tu ti trovi in una situazione di impossibilità, tu vai oltre e impazzisci e fai qualcosa di violento contro di te e contro gli altri, se non metti in discussione te stesso. Una domanda però, in questo caso non è solo un desiderio impossibile che poi di cui puoi renderti conto dell'impossibilità, hai comunque tre figlie che devono mangiare, che devono sopravvivere insieme a te, eccetera, eccetera. Quindi in che concretamente come si supera l'impossibilità? Perché non è che puoi azzerare le figlie, appunto, se le azzeri le uccidi. Ecco, l'altro giorno una persona, un disoccupato, che sono 3 anni che cerca lavoro, spostiamoci perché così ti posso dire con un esempio la risposta, sì, che penso sia quella giusta. Un disoccupato che sono 3 anni che bussa a tutte le porte, no? E nessuno gli risponde, ed è al limite, ormai è al limite, ormai è in una situazione, appunto, gli vengono in mente dei brutti pensieri, come lui dice, pensa di fare una strage, pensa di uccidersi, cioè è proprio lì, in quella situazione. Quando io gli ho detto: attenzione, che tutto questo si verifica perché non è stato messo in discussione il proprio progetto, il proprio desiderio. E lui dice: no, è perché la situazione non cambia che io sto così male. Il problema è appunto questo, che se quando la situazione non cambia e tu bussi a tutte le porte, tu hai 3 figlie e non sai se potrai sfamarle, d'accordo? Ti vengono in mente tutte le cose più brutte, d'accordo? Ma se tu metti in discussione le cose che ti vengono in mente, cioè metti in discussione te stesso, non le fai più. Il problema è se tu invece ti sposti solo dalla parte delle possibilità concrete. Cioè, allora io gli ho detto: scusi, ma se lei invece di continuare a bussare alle porte comincia a chiedere l'elemosina, dice: no, mai! Come sarebbe? Tu chiedi l'elemosina. Cioè, ci sono tante altre cose che si possono fare. Sì, certo. Una signora c'ha 3 figlie, teme di non poter sopravvivere, comincia a chiedere aiuto, nel senso di andare in piazza con un cartello, le figlie vengono sfamate. Però è possibile per quella persona, cioè magari quella persona pensa che la sua dignità non le può consentire, cioè non si mette in discussione. Questo è il punto. Il punto è che spesso le persone, come dire, di fronte alle impossibilità reali, non mettono in discussione se stesse. Continuano a pensare che la soluzione sia nella cambiamento della situazione reale. No, non c'è solo quella. Se la realtà non si può cambiare, devi cambiare tu. E se tu non riesci a cambiare, da quella parte non ci puoi andare e vai dalla parte del male, dalla parte del e il limite ti sopravanza e tu esci fuori, no? Questa è, come dire, la situazione quando si interpretano le cose in questo modo, cioè quando si dice: uno può impazzire perché non riesce a sormontare il limite. Allora la cosa che bisogna dire a queste persone è che quando qualunque sia il limite, quando tu ti trovi di fronte al limite, dovresti mettere in discussione te stesso. Se tu non metti in discussione te stesso e ti metti di fronte al limite senza mettere in discussione te stesso, rischi di impazzire. E invece l'altra strada, diciamo dopo lo stacco musicale, che dici? Dopo, certo. Ci siamo con lo stacco musicale. Io ricordo i numeri: 333-180-94-94 per i vostri sms e 051-346-458 per partecipare dal vivo. City free. Get on your knees, pray for warmth and green paper. A city drought, you're down and out. I see your trousers don't taper. Saddle up, kick your feet, ride the range. travel to a local plane, turn around and come back again. And at the chime of a city clock, put up your roadblock, hang on to your crown. For a stone in a tin can is wealth to the city man who leaves his armor down. I stay indoors beneath the floors, talk with neighbors only. For games you play make people say you're either weird or lonely. A city star won't shine too far on account of the way you are, and the beads around your face make you sure to fade back in place. And at the beat of a city drum, see how your friends come in twos or threes or more. For the sound of a busy place is fine for a pretty face, who knows what a face is for. Abbiamo rimandato la seconda possibilità che stavi descrivendo a dopo il brano musicale. Abbiamo fatto anche bene, perché arriva un messaggio da un nostro ascoltatore, dalla nostra ascoltatrice, che dice: buongiorno, l'ombra non ha una netta distanza dalla luce e dal buio, il male allo stesso modo non è definibile. Questo è il messaggio. Sì, non vorrei però che si pensasse che il male può essere bene e il bene può essere male. Ci sono zone di sovrapposizione. Per esempio, quando io penso che per il mio bene ti devo fare del male, allora c'è una zona di sovrapposizione chiarissima, no? Ecco, però questo messaggio ci dà lo spunto per dire che c'è un altro modo, diciamo quello metafisico, per affrontare, per elaborare le situazioni tragiche della vita, come questa di cui stiamo parlando oggi. E cioè che in definitiva ci sono momenti dell'esistenza in cui il male prevale sul bene, in cui cioè è talmente malefica la situazione che non può che produrre altro male. Che cosa può produrre, se non del male, un tradimento rifiutato? Cosa può produrre, se non dell'altro male, una impossibilità di sopportare una enorme responsabilità solitaria di fronte a tre bambine? Può produrre un abbandono, certo. Perché non c'è solo il tradimento, c'è anche proprio l'abbandono, andare da un'altra parte e fare un'altra vita. Ma secondo me qui il male, se fosse solo abbandono, sarebbe meno male tutto sommato. Sì, sì, sì, perché è un insieme, abbandono per un altro, per un certo motivo, perché quello è andato con un'altra. Certo. No. Per cui in definitiva certe cose succedono quando il male produce altro male. Allora in questo caso il problema, in questo caso questa signora di cui stiamo parlando era lucidissima. Non è vero che non fosse lucida. Era lucida, cioè era lucida nel suo fare del male. sapeva che stava facendo del male e lo faceva per farlo, perché non poteva fare altro che fare altro male per rispondere al male che stava subendo. Allora, qui il problema è che non si tratta più di fare in modo che la persona non impazzisca, che non si tratta più, appunto, non si può utilizzare il mettere in discussione se stessi per cercare di allontanarsi dall'impossibilità di superare il limite, come dicevamo prima. Qui invece il punto è un altro. Qui quando il male arriva e la situazione è determinata da una prevalenza del male sul bene, cioè in senso proprio metafisico, ontologico, qui l'umanità di oggi è, come dire, senza armi, completamente indifesa, perché tutte o quasi tutte le modalità che la cultura umana, che l'uomo ha escogitato per fare in modo che il male non produca altro male, ma perché il male produca del bene invece, perché questa è l'alternativa, no? Per cui, per esempio, lui mi ha abbandonato, io c'ho tre figlie, mi miglioro il rapporto con le mie bambine, costruisco un'altra vita migliore di quella di prima rispetto a quella che avevo con chi mi ha lasciato, e dal male ne viene fuori un bene. Io cioè cambio delle cose proprio perché sono stata abbandonata e tradita, cambio delle cose della mia vita, riordino la priorità dei valori, così, e produco del bene da quel male che è stato, che mi è stato fatto, no? Però dicevi tutte le strategie umane, ecco, certo, per esempio, come dire, questa noi chiediamoci, cioè, questa signora era albanese, era musulmana, era credente, no? Se fosse stata musulmana credente avrebbe obbedito alla volontà di Dio, no? Cioè, di fronte alla ineluttabilità del male, tu ti rivolgi, ti puoi rivolgere, questa è una delle caratteristiche, è una delle cose che l'umanità ha fatto, tu preghi, ti rivolgi a un'entità superiore, cioè al bene supremo, sì, oppure la solidarietà degli altri, perché non è soltanto oppure la solidarietà degli altri. Per esempio, se fosse vissuta in un'epoca diversa questa signora, è circondata da una comunità solidale, non le veniva in mente che era così sola. Non era sola, avrebbe potuto far capo. Adesso io cito una via religiosa e una via laica, certo, ma che sono entrambe però in crisi nella nostra cultura, entrambe in crisi. A proposito di questo, ci arriva un messaggio a proposito appunto della lettura sia credente che sia fideistica, diciamo, che laica. Ci viene anche uno spunto a proposito di quello che dicevi tu: ma la mente umana crede in tanti dei, come non pensare che possa credere alla morte come auspicio, come Dio in un qualche modo? No, certo, la morte, come dire, certe volte quando tu sei senza via d'uscita, la morte può essere considerata come una via d'uscita, può essere considerata come un modo per eliminare il problema. Tu muori e non hai più il problema. Ecco, però, come dire, più che di una forma di religiosità, io in questo caso parlerei di una forma di difesa psicologica, cioè di un meccanismo di difesa. Tu praticamente non reggi la situazione e allora, invece che continuare a lottare, dici basta, mi sottraggo. Cioè è un modo per sottrarsi, è il modo estremo per non farsi trovare da quello che ti distruggerà. Ti distruggi prima tu, in modo da non farti trovare. E in qualche modo, in questo, per esempio, per certe persone c'è come un'affermazione di sé, no? L'estrema affermazione di sé. Cioè, io sono perso, ma prima di essere distrutto e sopraffatto, mi distruggo da me. Così non do soddisfazione al destino. Molti animali anche, gli scorpioni fanno così, quando si vedono sul finire si pungono da soli. È un atteggiamento arcaico, istintivo probabilmente. Possibile, non lo so io dal punto di vista che cosa può significare nel mondo animale questo. Certo. Perché ci sono tantissime, per esempio nel mondo animale c'è il suicidio collettivo. Oppure... vanno al fiume e si buttano tutti i topi, si buttano... sì, però che cosa, come dire, dal punto di vista della spiegazione di questo, non so, anche perché le forme di empatia tra l'uomo e l'animale sono abbastanza, come dire, controverse, no? Mentre invece per l'uomo è possibile che sia così. Per esempio, non si può escludere che questa, che un atteggiamento come quello di questa mamma abbia anche una sfumatura di potere, cioè che, come dire, non mi avrete, distruggo tutto, distruggo le mie figlie, distruggo me stessa. Poi però non ci è riuscita del tutto, però nel fare questo mi affermo, nel fare questo sono io che lo faccio, non sono passiva ma sono attiva. E arriva un messaggio sul filo di lana. Il nostro amico Andrea, grande Will, di al prete che la religione è una reazione alla paura della natura di tipo biochimica, come lo scorpione segue il suo DNA. Questo è il messaggio. Adesso gliene canto quattro io al prete, Andrea, non ti preoccupare. No, ma il prete dice che certe certezze... Mi piace questa cosa, che sei diventato un prete. Comunque. Beh, non diciamo come sei diventata tu invece. Ecco. Vabbè, lasciamo perdere. Vabbè. Scusami, ti ho interrotto. Sì, dato che lui non si rivolge direttamente a me, ma no, dice a Willy, io dico, il prete dice... A Willy? Non lo dico a lui, dico, il prete dice che, come dire, bisogna stare attenti a... certe certezze espresse in modo dogmatico sono da prete. È un ribattersi. Ecco. Potrei anche essere d'accordo su questa cosa. Mi sa che però dobbiamo continuare la nostra discussione mercoledì prossimo. Mi sa anche a me. Ringraziamo tutti coloro ci hanno Grazie. Scritto e hanno animato questa trasmissione. Ringrazio Francesco Campione, che prete non è, però ormai è diventato lo è diventato di default, e ringrazio anche Will. Grazie cara, io ringrazio quanto te. Quanto mi sento leggera che oggi. Prete non è, ma vorrebbe esserlo. Lo so, sto è più prete sì. Andrea è più prete Willy di Francesco, fidati. Ok, diciamo che allora vi benedico in questo momento e vi invito a restare all'ascolto dei 103.1. A mercoledì prossimo. Oltre la crisi. Parliamone. In studio il professor Francesco Campione.